pianoforte risuona, pianoforte. E dentro arrivano onde corte. Non ci posso fare nulla, è più forte del mio volere tappare al cuore le porte. È sempre un viaggio nuovo che ti spinge. Cercare una rima nuova, un suono che attinge. Il tema da dare, che sia bello o triste, alla nostra voglia di sfuggire al destino che stringe. Non puoi dare proprio tutto per scontato. C'è chi il prezzo della vita l'ho già saldato. E io che alcuni step della vita ho saltato. E forse per alcuni versi mi sono salvato. Torno sul pezzo per non risultare banale. La musica può fare ciò che è mentale. Alcuni poi non riescono a liberare. Ma la vita è un ostacolo difficile da affrontare. E scrivo un altro pezzo. E il pianoforte detta il tempo. E non c'è retorica a cui tengo, ma solamente passione a cuore aperto. E non importa se la mia giornata è grigia, il sole scalderà le mie dita con un'altra rima. Lo metto, non scrivo mai troppo spesso. Sempre paura di giocare di riflesso. Penso a mille cose tutte insieme e poi le mescolo. E più delle volte metà me le dimentico. Il pianoforte è stato amore anni fa. Forse siamo già predestinati, chi lo sa. Siamo tutti innamorati di un qualcosa che in un mondo in bianco e nero poi dà un tocco di colore. Se pensi a me ovunque sei io ti penso. E non passo quanto dovrei e non è il tempo che mi manca se tu in questo momento fermo, immagine, stop e non lo cancello. E spero che ti arrivi il mio pensiero e che il suono di questo pianoforte apra il cielo. Magari potresti fare un salto qua giù davvero. Febbraio sarebbe un mese meno nero. I still love you. E scrivo un altro pezzo. E il pianoforte detta il tempo. E non c'è retorica a cui tengo, ma solamente passione a cuore aperto. E non importa se la mia giornata è grigia, il sole scalderà le mie dita con un'altra rima. Non ho titolo da dare, mi basta imprimere le impressioni e le mie storie su questo piano. E a molti che conosco poi sembra impossibile che io abbia anche in fondo un lato umano. Non sono un ET sbarcato senza motivo, passati 20 e non ho ancora un obiettivo. Non siamo tutti attori con lo stesso copione. Forse siamo solamente una generazione di nuovi poeti delusi dal grande editore. Il sistema è fermo in riparazione, noi occlusi dal sogno di avere una pensione. In fondo schiavi della nostra reputazione. Non ci lasciamo mai andare all'emozione. Io sì, la musica c'è, un pezzo di cuore. Mi abbandono e stacco tutto attorno in silenzio. Io chiudo gli occhi e la sento.